Good morning, Radio Kabul! Uno, nessuno, centomila. Di Alessandro Milan con Leonardo Manera. Oh, cari ascoltatori, siamo qui in questo venerdì 31 gennaio, giorno della merla, anche se ho visto che fioriscono gli alberi a Milano, quindi questo è il freddo che ci portiamo, altro che ultimi giorni di gennaio, giorni più freddi dell'anno. Sono le 9:08 minuti, signori, vi annuncio che oggi abbiamo una puntata particolare. Intanto, vabbè, Vestagliona Manera è a casa, con la febbre si collegherà, si sa, ormai è un feuilleton, è una leggenda il nostro Vestaglione. Non è coronavirus, anche se è arrivato in Italia, non è lui. Ma oggi io qui sono felice, sono allegro, perché vi ho portato una persona, un fratello rossonero, milanista e soprattutto un maestro di giornalismo. Andrea Vianello, eccolo qua. Andrea, eccoci buongiorno. Qua, buongiorno a tutti, cioè, sono molto contento io di stare con te. Il bello è che Andrea Vianello non gli devi spiegare niente, la cuffia, la ra, cioè voglio dire, perché tutti lo conoscono come, lo chiamano anche come, ah, mi manderai tre, ciao, mi manderai tre, perché non... L'ho fatto per un po' di anni, sì. Però in realtà hai fatto la radio, dai, dillo che è più figa la radio della TV, dillo, sei obbligato. Sì, lo dico perché è vero, proprio, io amo la radio, in questi, ecco, entrare solo in questo studio e mi ritorna. Io sono stato 12 anni a Radio 1 e insomma è stato gli anni più belli della mia carriera. E quindi sì, anzi, se hai una cosa per dormire qua anche stanotte, io resto qua e così mi sento bene. Andrea Vianello, sei con noi oggi fino alle 11, qui a co-condurre, quindi abbiamo cacciato Manera e c'è Andrea Vianello, perché dobbiamo ci provo. No, ma sei tu che sei bravo. Dobbiamo parlare di tante cose e dobbiamo parlare anche del tuo splendido libro, e dico splendido non a caso, perché insomma, perché lo è, perché io l'ho letto ed è un libro molto bello che racconta il tuo ultimo anno di vita, diciamo così. Però fammi salutare la redazione, da Filippo Reggi in regia, Lorenzo Nespoli, Miriam Lucchetti, Elisabetta Fusconi, ci siamo tutti, possiamo partire con il trepidante Conte, vai! Enthusiasm about the future. Noi iniziamo così, con questo entusiasmo, ma un po' zoppicante. Perché beh, meno male che i problemi ce l'ho io con le parole, insomma, sono con buona compagnia. Allora, Andrea Vianello, intanto da dire, parleremo del coronavirus, parleremo di scuole a Roma, parleremo di questa fobia del coronavirus, mamma mia, le mascherine, la gente perché va in giro come fosse carnevale, anche se tutti vi dicono che non serve a niente, gli esperti dicono che tanto è inutile, che fate incetta di mascherine, eccetera, però è arrivato il virus in Italia, due turisti cinesi a Roma, che sono stati anche a Parma, che sono stati anche a Milano. E quindi, ecco, prima di parlare di altre cose, tu hai paura di questo, Andrea? No, per adesso ancora no, poi certo, adesso capire un po' questi signori dove sono andati in questi, come dicevi giustamente, insomma, sono andati un po' in tutta l'Italia, non abbiamo ancora capito perché hanno cambiato la stanza in albergo, dove sono andati a mangiare, no? Poi mi dicono che le mascherine vengono dalla città dove è nato, fa un po' tutto ridere e quindi anche un po' piangere, quindi non so, insomma, speriamo, ecco, di avere i nervi saldi. Ecco. Allora, c'è da dire una cosa, ieri tra l'altro, senti qui, io ho una carissima amica cinese, i miei ascoltatori lo sanno, Jessica, che abita tra l'altro nel mio palazzo, ha un negozio sotto casa, il mitico Spazio Nolo 43, a parte che ormai è più che cinese, è milanese, parla il dialetto. Allora ieri le ho mandato un vocale e gli ho detto, ma è vero che vi evitano i cittadini quando vedono i cinesi? E lei mi ha dato una risposta geniale, senti qui, Beale, così fa una selezione naturale, intelligenti mi avvicinano, ignoranti mi allontanano, meglio così, non c'è bisogno di selezionare. Stupendo, la selezione naturale, così gli ignoranti se ne stanno via. Poi però dopo un minuto ho aggiunto una cosa. Perché non posso più prendere caffè, comincio a capire. Cioè, anch'io, è vero, sono tre giorni che non vado a prendere il caffè da Jessica. Ma ti pare che uno debba incrociare un cinese e insomma, e cosa deve fare? Girare la faccia? Beh, non so se è bella la cosa che ha scritto oggi da qualche parte Massimo Gramellini, no? Mm-hmm. Cui dice che ieri è alla Rai, dove lui sta facendo il programma, a Rai 3, c'era uno che ha preso l'ascensore con lui ed altri, che aveva i tratti orientali, e tutti sono andati un po' lontano e lui ha detto sono della Corea, quindi capisci che però insomma, poi ha aggiunto del nord e quindi tutti allora si sono ritratti ancora. No, ma ragazzi è incredibile, eppure succede questo, leggevo sul Quotidiano Nazionale, la psicosi nelle scuole, al Conservatorio di Santa Cecilia a Roma hanno chiesto di mettere in quarantena, insomma di allontanare gli studenti, al Mascagni di Prato, figurati a Prato, è pieno di cinesi, un gruppo di genitori ha scritto alla dirigente tutta in ansia, va bene. Parleremo di questo più avanti, io però ho appunto davanti a me il libro di Andrea Vianello, Ogni parola che sapevo, edito da Mondadori, so che è un libro che sta andando molto bene, mi fa molto piacere. Grazie. Ho scoperto quasi anche un po', non so se dire con dolore, ma insomma quasi nel finale del libro, che era proprio il 2 febbraio, cioè un anno fa. Sì, un anno fa. Sarà domenica un anno esatto da quando ho avuto questo ictus che mi ha spezzato improvvisamente la vita, da cui poi però per fortuna sono riuscito a ripartire, anche se mi sono svegliato dopo l'operazione in cui... queste mie parole, che ho amato per tanta vita, perché è l'unica cosa bella, diciamo, che sentivo, che diciamo era un pezzo proprio molto importante della mia identità, e non c'erano più, nel senso che non riuscivo più a parlare, facevo grandi errori e soprattutto le parole restavano nella mia testa, per fortuna sapevo come si chiamavano, come si dicevano, ma non riuscivo a dirle, e questo sono stati tanti mesi di grande difficoltà. Devo dire che lo hai raccontato con grande forza, è un libro che ti proietta subito nel dramma, cioè le prime tre pagine sono quasi una corsa che lascia senza fiato, il racconto proprio dal tuo punto di vista di quella giornata, dell'ictus, dell'urlare il nome di tua moglie Francesca che ti ha salvato di fatto. Assolutamente, no? Perché poi nella vita bisogna avere anche un po' di fortuna, no? Quindi magari quel giorno poteva essere un giorno normale dove io e lei andavamo a lavorare prima, quindi anche mia moglie lavora in radio, e invece era sabato e quindi stavamo a casa, quindi diciamo questa cosa mi ha permesso di chiamarla, anche se non riuscivo a dire il suo nome, però qualche cosa ha capito è stata molto brava, è stata brava, ha avuto freddezza, è riuscita insomma a chiamare il 118. È una grande storia anche di sanità pubblica. Sì, infatti tu l'hai raccontata, sì. Hai voluto omaggiare davvero tutti coloro che ti hanno letteralmente salvato. C'è un punto in cui quando tu poi ti risvegli e chiedi ma ero davvero grave, insomma ti dicono no, lei era morto. Sì, è vero, è successo così perché in realtà appunto l'ictus era la conseguenza di una dissecazione della carotide che quindi era in atto già da un giorno e quindi quando hanno capito mi hanno dovuto operare, ho trovato anche lì un giovane bravissimo neurochirurgo che ha avuto anche il fegato di dire a mia moglie io anche se rischio voglio salvarlo perché probabilmente se no lui non parlerà più e forse non capirà e quindi io voglio lasciare la possibilità che sia l'uomo che c'era e anche se questo per lui era un rischio, poteva andare male, invece lui è stato così bravo che appunto mi hanno messo due stent e mi sono poi svegliato, ecco. L'unico problema appunto è che problema che non parlavo. Che adesso è bello raccontarlo e riderci, se sì. Posso permettermi, anche perché ci sono dei momenti spassosi, se posso permettermi, nel momento in cui parte tutta la fase di riabilitazione, come quando leggo ci sono i primi esercizi e sfoderano un libro uscito dritto da un asilo infantile, me lo mettono davanti con una figura di una volpe e una figura di un pennello. Qual è la volpe? Domanda la psicologa. E giustamente Andrea Vianello, no, dice, stiamo scherzando? Cioè, il disegno in alto raffigura un pennello da pittore, quello in basso una cazzo di volpe, e stiamo messi proprio bene se pensano che non so distinguere un pennello da una volpe. Ma si riparte così. Sì, anche sei perché... dovuto ripartire così. Sì, perché sai, poi l'ictus ti lascia un danno e non è facile neanche per loro capire qual è il danno, no? Quindi, soprattutto i primi tempi in cui io parlavo male, quindi non capivano ancora se avevo dei problemi anche cognitivi, no? Quindi c'erano dei test che cercavano di far capire innanzitutto se la mia, diciamo, pensiero era sempre, diciamo, esatto, ecco. E poi a poco hanno capito che il problema era soprattutto il linguaggio, sia per quello che parlavo, sia per quello che scrivevo. Quindi certo. La cosa abbastanza incredibile è che ho scritto un libro in un momento in cui pensavo di non riuscire a scrivere, insomma, ecco. E però l'ho fatto anche proprio per questo, perché ho pensato che diventava una grande terapia e... lo dovevo fare tutti i giorni come un pazzo, diciamo, da solo, quindi diciamo senza neanche usare il correttore, perché volevo ritrovare le parole che non riuscivo più a volte. Dicevo, allora devo scrivere intraprendente, benissimo, intra... aspetta un attimo, in... no, aspetta, in... c'è una parola che inizia per int, c'è una parola che inizia per int, io posso capire, certo, che tu hai ragione, hai ragione, forse era quello. Potevi iniziare un po' con lo so, però insomma, niente, poi insomma va bene, tante lezioni di parole con queste... Infatti tu racconti molto bene il dramma di chi... ammette, non sapevo far altro nella vita che usare bene, aggiungo io, le parole. Tra l'altro ti porto i saluti di Margherita da Palermo, che dice: lo ascoltavo tutte le mattine. Ecco, una che non ascoltava Radio 24, ascoltava la Rai. Che all'epoca eravamo proprio quasi all'inizio, vostro, quindi ecco, io sono vecchio, quindi mi sa che ancora non c'era quasi. No. Comunque tu racconti benissimo che cosa vuol dire di fatto perdere professionalmente tutto, certo, eri vivo e questa era la cosa più importante, sì. Però avevi perso tutto ciò che era il tuo bagaglio professionale, di colpo. Sì, anche un po' un'identità, appunto, no? Cioè, io sono sempre stato un uomo, appunto, che sulla parola ha fatto anche veramente la mia personalità, quindi diciamo la battuta pronta, essere molto veloce, infatti non a caso insomma poi ero finito a parlare alla radio o alla TV, insomma, quindi non solo un lavoro, no? Io non ho pensato a quale sarebbe stato il mio futuro. Devo dirti, Alino, che un po' tu mi conosci, io ho fatto anche il direttore, certo, direi tre. Quindi insomma a me non ho tutta sta voglia, cioè non è così importante essere in onda, ecco, no? Cioè è bello, è molto bello, è un lavoro importantissimo, però dico vabbè, non è quello il problema, ecco, il problema intanto era ritrovare la possibilità di parlare con i miei figli, con mia moglie, con gli amici, insomma ritrovare i pezzi, ecco, che in quel momento era come se si fossero sparsi in mezzo in quella stanza di ospedale e dove sembrava che rimetterli a posto era quasi impossibile, insomma, no? Nonostante che i medici mi hanno detto: vedrà che mesi, mesi e mesi, però tornerà. No, magari non come era, ma insomma, no? Ecco. Poi loro non sanno, perché la cosa interessante del cervello, anche se uno la vive dall'altra parte, è che la forza è un mistero, del nostro. Esatto, è particolarmente. Cioè, ha degli angoli veramente misteriosi, sì. Anche per i medici, soprattutto. Anche per loro, no? Infatti, qual è la cosa forza? È che noi ne usiamo solo il 30 del nostro 30%, e l'altro non sappiamo bene che ce l'abbiamo, perché ce l'abbiamo. Adesso io per esempio ho capito perché quello che non riusciva più a fare, la parte che è stata diciamo colpita, c'è stata un'altra parte del mio cervello che non sappiamo bene mai perché, hanno detto vabbè, questo lavoro adesso lo facciamo noi, ecco, e quindi chiaramente hanno dovuto trovare il moto per trovare questo nuovo lavoro. No, ma comunque con Andrea Gavianello, adesso parliamo di tante tematiche, ci sono tante sfumature di questo libro molto, molto interessanti. Ce n'è una, per esempio, che mi permette anche di introdurre un ospite che abbiamo chiamato. A un certo punto Andrea Vianello, quando racconta un po' della sua vita, perché ci sono anche dei momenti in cui uno cerca in qualche modo di fare un punto della propria vita, esatto, racconta esatto. di quando da ragazzo era un ragazzo ciccione. Devo usare proprio questa. Era vero. Stato un bambino ciccione. Chi conosce da dentro i bambini ciccioni sa la solitudine che li strugge, il senso di inadeguatezza che gli resterà per sempre. Fanno ridere i bambini ciccioni. Capiscono da soli che è meglio fare simpatici che i bersagli e a casa piangono da soli. Questo leggo la pagina 36. Un po' così, no? Sai che l'altro ieri ha fatto un discorso alla Camera prendendo la parola l'onorevole Filippo Sensi, che è stato portavoce di Renzi, di Gentiloni, ha preso la parola alla Camera per dire questo. Sono stato per tutta la vita e sono, cito, un cicciabomba, cannoniere, un panzone, un trippone, una palla di lardo. Qualcuno mi chiamava Manzo, mio padre ci sformava. Un ragazzino una volta mi gridò: Sensi, mi fai senso? Lo ricordo come fosse adesso. Chiunque mi conosca, Presidente, e mi scuso per il fatto personale, sa che sul mio peso scherzo, lo esorcizzo, ci sorrido, ma mi ci misuro ogni giorno, non come un'ossessione, ma come la mia dimensione, il mio spazio. E sento questo sguardo che pesa, che mi pesa, già mi pesa. Eccolo qui, Filippo Sensi, buongiorno, eccoci Filippo. Buongiorno a voi. Ciao Filippo. C'è anche Andrea Vianello. Io quando ho letto il libro di Andrea Vianello, che doveva venire qui, poi ho letto questa parte, poi ho sentito il discorso alla Camera, ho detto dobbiamo chiamarlo Filippo Sensi. Perché oggi questo intervento alla Camera, Filippo? All'occasione era un'occasione parlamentare, era in discussione un provvedimento sul bullismo e sul cyberbullismo. Allora ho pensato che potesse essere l'occasione per presentare un ordine del giorno, apro e chiudo parentesi, voi sapete che gli ordini del giorno, come si dice nel gergo parlamentare, non si negano a nessuno, cioè nel senso sono qualcosa degli atti di wishful thinking, però un ordine del giorno per dire che, guardate, c'è questa questione del cosiddetto fat shaming, cioè della derisione di chi è grasso, oppure del cosiddetto body shaming, cioè della derisione del corpo, delle caratteristiche fisiche, che sta acquisendo una sua centralità nel dibattito pubblico in giro per il mondo e anche da noi, nella conversazione pubblica è diventato un tema. Allora ho detto cerchiamo di enuclearlo, magari lo posso fare incarnandolo, perché sono appunto grasso, obeso, chiamiamolo come vogliamo, e quindi lo posso fare pur cosa. Questo ha portato a un piccolo intervento di sull'ordine del giorno di 3 minuti, però devo dire, la cosa che mi ha veramente colpito, se posso, Alessandro, è stata la risposta immediata che c'è stata, ma non solo l'aula, il tributo e l'applauso di fronte al, virgolette, caso umano, ma è stato come stappare qualcosa, per cui sono venuti parlamentari a raccontarmi della loro vicenda, della loro storia, della storia personale, storia di parenti, storia di persone vicine, e da lì è stato un fiume in piena di messaggi su Twitter, personali, telefonate, poi interviste anche oggi sul Corriere, su Repubblica, sì. Ma giustamente insomma di... Guardate, questo è come si dice, un po' un giro di giostra, quindi fa parte del Truman Show, non mi sottraggo, leggo che sei il simbolo, la vita, insomma, questa cosa non, come sa bene Andrea che mi conosce, penso non mi appartiene granché, però l'idea era, se può essere utile, facciamolo. Ma infatti questo, no, penso Filippo, no? Un po' quello che sto provando a parlare anch'io di quello che mi è successo, che è un'altra cosa, però nel senso che è vero che essere un simbolo probabilmente sembra una cosa diversa da quello che tu pensi, però in realtà stai aiutando, cioè perché adesso tante persone le servono, ma certamente che, sai quante persone adesso sono più forti? Io quello che sto cercando di dire nel mio libro, e tu lo stai facendo, e te lo dico anche io da bambino ciccione, come ti ho anche scritto a Twitter, perché anche io ero un ciccio bomba, cangoniere, fa la cacca nel bicchiere, perché ecco, da me un bambino. E poi l'altra cosa che voglio dire è che alla fine Filippo non sta dicendo che adesso non è vero che è grasso, perché ha perso tanti, 40 kg, esatto. Ma perché, cosa lo dice? Perché noi che siamo stati ciccioni, anche se saremo magrissimi, penseranno, se noi pensiamo sempre di essere ciccioni. Infatti questa è la domanda che volevo fare a Filippo, cioè, prendo spunto da un'ascoltatrice che ci scrive un messaggio: ho 60 anni, scrive, ho subito le angherie dei compagni, soprattutto di mia mamma, e questo fardello ancora me lo porto dietro. Ma davvero non, come dire, è un qualcosa che ciccioni da piccoli, ciccioni per tutta la vita, Filippo? Sempre rabba. No, guarda, ti dico, io non l'ho mai vissuta con senso di colpa oppure come una vittima di chissà quali soprusi. Non sono mai andato a mangiare nel frigorifero da solo nella notte, e non so se ci ho pianto o meno. Vedo delle cose, io ci scherzo molto su questo, è il mio tratto caratteristico. Forse però questa è la spia di un disagio, ecco, tutto, cioè nel senso che se tu sei accompagnato per tutta la vita, sei alto e sei piccolo, sei con gli occhiali, sei con i capelli, insomma, vale per tutti ovviamente. Poi dopo c'è quello che ci soffre, quello che lo mette dentro. Qualcuno può andare fino alle estreme conseguenze su una vita magari di bullismo. Io non l'ho mai vissuto così, l'ho sempre vissuto con tranquillità, eccetera. Però ho pensato, siccome questa cosa esiste, e siccome anche magari il modo di sdrammatizzare, di esorcizzarlo, può essere il riflesso di qualche cosa che uno ha subito, ha vissuto, diciamola così, perché non dirlo magari per aiutare altre persone? Ti dico, mi ha scritto una ragazza, mi ha detto, guarda, io dai, una signora dai 13 ai 17 anni non esiste una foto mia, perché io ero troppo magra e quindi ho cancellato la mia identità. Quindi mi ha detto, nelle parole che ho sentito attorno a questa cosa mi sono riconosciuta. Un'altra persona mi dice, io peso 130 kg e oggi comincio la dieta. Mi dà forza questo messaggio perché mi dice ce la posso fare. Questo è quello che diceva anche Andrea. Secondo me a volte è bene che alcune persone pubbliche prendano la parola e parlino per tante persone che magari non hanno l'occasione, non hanno la possibilità di parlare. E quindi io credo che sia stato un gesto. Ma ti è venuto spontaneo oppure cioè è stato collegato appunto a questo progetto di legge? Però guarda Alessandro, ti dico la verità, me lo sono preparato, nel senso che cioè, non volevo che fosse un momento della verità di tra virgolette di fragilità, volevo che avesse un significato, adesso permettimi, politico. Avevo letto e ho parlato per tanto tempo con Costanza Rizzacata d'Orsogna, è uscito in questi giorni il suo libro che racconta sotto subspecie di un romanzo una storia di obesità, bulimia, anoressia, rapporto difficile con i genitori, in una maniera di una grandissima intensità. Ho chiesto a Costanza, che sta facendo questo lavoro sul body shaming da tanti mesi, un'expertise e delle idee. Avevo messo appunto un ordine del giorno che chiaramente chiedeva maggiore prevenzione, maggiore informazione, perché anche su questo ci sarebbe da fare un discorso, no? È giusto normare tutto? Sì e no, ci sono ambiti delicati, insomma i legislatori devono sapere che è tutto molto delicato, però se tu mi chiedi l'hai fatto perché quel momento preso dal raptus, no, ho pensato, me lo sono scritto perché non sono un grande oratore e l'ho voluto dire, quindi insomma ci ho messo un po', posso dirlo, lo confesso, di mestiere. Grazie Filippo Sensi, ripeto, onorevole. Che dice una cosa, fa delle cose di cui, al di là delle posizioni politiche, credo che Filippo sta facendo una cosa anche importante. Sì, quello delle foto? Sì, le sì. Foto, ah sì, è vero. Ci sì, fa sì. Capire, tanto che lui ci sta, sì, che lui sì. Ci sta. Il lunedì, lui quando va alla camera fa la foto che è in genere dell'aula deserta. Ecco, intanto prima di tutto capiamo che lui ci sta sempre e quindi vuol dire che è molto serio. Cioè, non è che hai ingaggiato un fotografo, Filippo, paga sotto. Molti saranno arrabbiati con lui, immagino. Sono il deputato più amato. Esatto. Però è anche questa una roba forte, che c'è. Che ci fa capire delle cose. Se vedete delle aule deserte è perché Filippo Sensi può entrare e fare la foto e divulgarla, giustamente mettendo un po' alla berlina tutti i deputati che non si presentano. Grazie Filippo per essere stato con noi. Guarda qua che Andrea, ci sono tante domande anche grazie. Per te, eccetera. Arriva un sms di un ascoltatore, dice fai complimenti grazie. Ad Andrea per come si è ripreso, per il libro che aveva visto in libreria, che leggerò senz'altro. Grazie. E chiede ha avuto qualche sintomo prima dell'evento, chiede Daniela questa domanda. Innanzitutto a me interessa parlare anche dell'ictus, perché penso che l'ictus è uno dei tabù nuovi, no? Cioè abbiamo adesso appunto giustamente parliamo del tumore, che insomma per tanti anni non riuscivamo neanche a dire il nome. Dell'ictus si parla di meno, non che non lo sappiamo, sappiamo bene che cos'è, però insomma diciamo è un tabù perché fa paura, e credo che fa paura anche a noi che l'abbiamo avuto. Quindi abbiamo paura di parlare dei nostri danni, che alcuni si vedono, appunto. Io ho la fortuna che non si vede, diciamo, non ho problemi motori, no? Anche se una mano insomma ha perso un po' la sensibilità, però insomma mi sono non è così importante, insomma, ecco, gliela faccio, non riesco a mettere bene i bottoni, ma amen, ecco, a me mi ha preso la parola, per me era come essere sfigurato in realtà, e vedevo, pensavo che tutti che mi vedessero dicessero, vabbè, questo è diventato un mostro, perché per me era la parola, era come la mia faccia, no? E invece tante persone hanno avuto danni più visibili, alcuni anche molto difficili da gestire. Allora la prima cosa, io sto cercando di aiutare, perché ho visto tante persone che dobbiamo parlarne dell'ictus, che si può, periferine, si può magari non guarire perché il danno è rimasto, però puoi provare un percorso di riabilitazione, molto importante, perché adesso sono certo. Bravi, ecco, serve molto la forza. Detto questo, nel mio caso è stata una cosa un po' particolare, nel senso che io non avevo niente da un punto di vista patologico, non avevo la pressione alta, che è un problema che invece bisogna vedere per insomma fermare i rischi, non avevo il colesterolo, quindi insomma stavo bene. L'unico problema è che avevo un po' di dolore alla cervicale, e sono andato per la prima volta a fare quelle manovre, quelle manipolazioni al collo che fanno alcuni professionisti, in quel caso era un osteopata, che facevano un po' paura, però pensavo, secondo potessero lui, che servire. Yes, no, invece, tanto, insomma, quello che poi... ma la cosa importante, perché non è che lo dice Andrea Vianello, cioè il medico che ti ha operato, sì, quando ti sei ripreso, ti ha fatto subito una domanda, ha detto, cosa ti ha chiesto? Ha detto, ma lei? Sì, dice, lei non ha niente, lei stava benissimo, dice, ma non è che per caso stava andando da uno che le faceva le manipolazioni al collo? Ovviamente non sapeva niente questo medico. No, certo, e Andrea ha detto, sì. E invece sì, l'ha detto mia moglie, perché sì, in quel momento certo, non riusciva a dire neanche certo. Sì. E sì, invece sì, perché appunto io ho avuto questa, ho fatto una manipolazione giovedì, il venerdì ho iniziato ad avere questo grande mal di testa, che era la dissecazione già in atto della carotide, finché il giorno dopo ho avuto l'ictus. Ora è chiaro che, come i medici, ho parlato con diversi medici, loro sono sicuri, però naturalmente dicono, io non possiamo dirvi che è una cosa è stato sicura, quello, certo. Perché? Perché non è successo mentre stavi da lui. Io poi sono uscito, ho preso la moto, però quello che mi dicono i medici è, ne abbiamo visti tante di persone che dopo le manipolazioni, naturalmente dico una cosa importante, raro, ecco, è raro, quindi non è che io chiaro, ho avuto sfortuna, ecco, però ne hanno... Non sei il primo caso. Esattamente. Non sei il primo caso. Qual è la mia? Allora, questo non è un libro di denuncia, no, tu certo, che l'hai letto lo sai, ma dentro ho voluto anche appunto raccontare questa parte, diciamo, anche strana, nel senso che per dire anche che, ecco, lì una cosa mi piacerebbe importare, che questa cosa diventa una piccola battaglia, cioè queste professioni che probabilmente devono anche essere normate, perché come sempre hanno fatto una legge ma ancora non ci sono i decreti. Però cosa importante invece? Per noi, se facciamo un'operazione anche piccola piccola, normale, ci fanno firmare un consenso. Ecco, mi piacerebbe che anche per fare crack, cioè la manipolazione al collo, noi potessimo essere informati di sapere quello che c'è, che mani, anche che uno su un milione, ecco, però insomma ci sta, a me è successo e vorrei che certo, non succedesse ad altri. Allora, senza niente di no, contro, no, ma è chiaro, perché vedi, arrivano subito i messaggi, vanno, non c'è nessuna correlazione tra trattamento osteopatico e dissecazione della carota, e va bene. Parliamo con i neurochirurghi che ne vedono che tanti, sanno qualcosa. Il messaggio più bello, prima di fermarci un attimo per la pubblicità, è di Dino da Brindisi, che dice, la voce di Vianello è quella di sempre, è inconfondibile. Ciao, non so Dino, se è bello o no, ma va bene. No, sì, grazie. Un attimo di pubblicità. 1, nessuno, 100 Milan. Manera. Dai ragazzi, è possibile mai ancora in malattia? Ma non è vero, dai, non si può. Milan, scusa, il problema non è il cinese che vive qui da 20 anni, il problema è che in questi ultimi giorni ci sono state le feste in Cina, tanti cinesi hanno viaggiato, tanti parenti cinesi sono arrivati dai parenti milanesi e inevitabilmente c'è una possibilità di contagio, quindi non capisco, non è una questione di fobia, è una questione di logica. Milan, l'amica tua Jessica ha dato una lezione da manuale per quanto riguarda la selezione naturale. Complimenti. Va bene, intanto Vestagliona Manera se ne sta barricato a casa sua. Questo io vorrei, buongiorno a tutti, vorrei buongiorno. Far notare che non sono in malattia, ma sono in telelavoro. Insomma, in telelavoro? Tu Andrea Vianello, da direttore di Rai 3, non l'avresti già cacciato? Cacciare da 5 giorni che so, è a casa. Non lo so perché è talmente bravo, però io me lo prenderei così. Vabbè, anche lì. Anche in Vestagliona. Esatto. Mi adeguo agli standard del lavoro più moderni. Ieri ha tirato lo sciacquone. Sai che ieri ha tirato lo sciacquone? Sentito. Oggi ci vuoi far sentire, non lo so, cos'è il postino che suona. Prego, fai pure, Leonardo. Se arriva qualcuno risponderò volentieri al citofono. Però prima al citofono, insomma, sai che puoi rispondere al citofono di questi tempi. Ma che cos'ha? Posso sapere che cos'ha? Forse ecco, no, questa, ha una forma parainfluenzale piuttosto seria. Una molto forma parainfluenzale. Molto para. Sì. Molto para. Sì, molto. Sì. No. Ecco, anche Andrea Vianello ha subito capito con chi abbiamo a che fare. No, vedete. Vabbè, ma quante persone ti cercano e ti, a parte adesso che fai finta di suonare, quante persone sei veramente barricato in questi giorni? No, esco per fare il minimo indispensabile, quindi un minimo di spesa, e poi per andare un attimo al bar Jimmy e per così fare 4 chiacchiere in giro, oppure le cose minime che devo fare, ecco, passare dai vari bar e compagnia, questo è quello che faccio. E vabbè, che deve fare, insomma. Vabbè, chi è che suonava prima? Tu hai aperto la porta e... No, l'altro ieri, mentre c'era la trasmissione, ha suonato un signore, ma io, ligio al dovere, non ho risposto, era una multa. E poi dovrò andare a ritirare la raccomandata all'ufficio postale. Ecco. Quindi ho avuto anche un danno, un pregiudizio nei miei confronti, c'è stato a causa della trasmissione, perché non ho potuto ritirare di persona la raccomandata, quindi dovrò andare là con perdita di tempo. Allora, prima che ci racconti qualcosa di tuo, caro Leonardo, io ho ancora qui il libro di Andrea Vianello, non so se stavi ascoltando, mi ha molto colpito, per esempio, che quello che è successo l'ictus un anno fa. Tu, Andrea, a un certo punto racconti rabbia? No. Non sono arrabbiato, cioè ti rendi conto quando sei sveglio. Dice, e questa è la cosa strana, non sono arrabbiato contro il destino, la sfortuna, nemmeno contro il manipolatore che forse mi ha toccato male il collo, perché dentro di me, per quanto sembri assurdo, la vocina molesta stavolta è serena e dice qualcosa di sacrilego, dice meglio così. Eri sempre incazzato, pieno di rancore, rimpianti, notti insonni, tradimenti subiti, ingiustizie, insoddisfazioni. Che vita era? Meglio così. Ma è stato davvero un pensiero che ti ha attraversato? Sì, c'è stato, non penso che... No, non è neanche giusto in realtà poi pensarlo, perché penso che la malattia, insomma... è brutta. Infatti cioè, poi lo aggiungi, dici questa stronza retorica vocina. Sì, perché poi insomma penso che appunto non questa retorica anche che la malattia è quella che ci cambia la vita, insomma rischio anche di essere forse una cosa sbagliata, no? Perché vorrei tornare indietro in realtà. Poi è vero che, come dire, a me non è venuta la rabbia, so tante persone invece che dopo l'ictus hanno questa specie di rabbia. Io insomma, sì, ho capito che insomma, come dire, era stato il mio destino. Ero più felice del fatto di essere ancora vivo e di vedere ancora i miei figli, anche se appunto non riuscivo ancora a parlare con loro, e per i primi giorni ho avuto paura di parlare con loro perché mi vergogliano. Ecco, però Poi però è chiaro che questo grande viaggio nel mistero, nell'abisso e anche della rinascita e della speranza è poi un viaggio in cui fai i conti con te stesso, certo. Fai... Insomma, escono delle fuori cose importanti che io vorrei tenere. Cioè, sai, io adesso sono tornato in una vita normale, non vedo l'ora di lavorare ad alti livelli, insomma, però voglio sperare che questo libro lo voglio tenere anche per me a leggermelo, perché in quest'anno ho pensato molto, ho pensato alle cose più importanti della vita, che noi poi, sembra facile, ma poi non ricordiamo poi. Appunto, svegliare, dire ai miei uomini e ai ragazzi che non riuscivo più a dire, sapere che sto qui in questa... Insomma, ecco, quindi senza retorica. No, però sono le cose che contano. Poi torneremo a fare le stesse criniate, certo, di prima. Certo. Purtroppo sarà... Però ci sono dei... Leo... No, dicevo che a me ha colpito molto, ascoltando prima, il fatto che l'ictus ha comportato, per il fatto di non poter più parlare, proprio una privazione dell'identità, sì, che passa principalmente poi anche per chi fa il lavoro di Vianello attraverso la parola. E come si è riusciti a reagire a questa privazione dell'identità? Forse anche scrivere un libro ha aiutato, perché ha aiutato a recuperare in parte quell'identità. Esattamente questo, Leo, nel senso che è come se a un certo punto ho detto lo devo fare, anche se ti dico, pensavo di non scrivere, cioè nel senso che io i primi mesi non riuscivo a scrivere, scrivevo male, come un bambino, ero ritornato indietro, non trovavo le preposizioni, però ho detto ce la devo fare, perché è un modo per buttare fuori tutta questa roba. E poi appunto poi era nata anche questa grande idea di mia, non così importante per me, diciamo, di dare un po' un aiuto, ecco, cioè in questi giorni, certo, devo dire, sto vedendo tante persone che mi stanno chiamando, molti hanno problemi di parola, molti insomma sono stati diciamo colpiti in una parte del cervello, e mi dicono appunto un po' come dicevamo prima con Filippo, con Filippo, no? Ci dai forza, ci stai dando forza, certo. E non c'è niente di più adesso, insomma, che ne so, una persona forte che io stimo tanto mi ha detto adesso, una persona forte che non, insomma, comunque mi ha detto: dopo questo libro adesso voglio provare a scrivere anch'io, che non lo faccio più da 2 anni. Capisci, ecco, boh, se ecco, e lui scrive meglio di me. Quindi insomma, se faccio questa cosa, aiuto anche questa anche cosa. Sì, altri, sì. Sì, sì. Allora, dobbiamo andare a sentire un attimo le informazioni sul traffico. Ci siamo, state con noi. Uno, nessuno, 100 Milan. Buongiorno Milan, ho le lacrime agli occhi. Io da giovane sono sempre stato non sottopeso, Biafra mi chiamavano, e mio figlio anche lui è così. Oggi ho 62 anni, qualche anno fa qualcuno mi diceva: lì come sei diventato grasso. È una battaglia che non finisce mai e ti corrode. Sì, è un po' così. Allora, vedi, bravo Vianello, sei grande, ci scrive Roberto da Bergamo, siamo invincibili. No, non è vero, ci scrive Massimo. Si può avere Vianello al posto di Manera? Vabbè, questa... Ma tutti e tre facciamo. La Rai non mi lascia no, venire. La Rai. Guarda, se mi date un vitalizio... Ecco, ormai non ci stanno più. Che poi a Manera basta la pipa, il cane, la vestaglia, uno sprizzino, un amaro Manera, ovviamente, e basta, è a posto così. No, devo dire, adesso voglio tranquillizzare, messaggio come quando si organizzava la resistenza, messaggio per la chat: state tranquilli e state parati, loro sanno. Andrea si muove, no, nel senso che tra poco ne parliamo, non ha capito nessuno tranne coloro che dovevano capire. Qualcuno sicuramente ha capito, però prima Leonardo, a te la parola. Allora, se Filippo Reggi mi manda una delle due basi che abbiamo, ecco, oggi questa. Questi giorni si sta parlando molto del coronavirus, che potrebbe contagiare molte persone in tutto il mondo, ma ci sono anche altre cose che si possono trasferire. sono le abitudini, non quelle che decidiamo noi, ma che ci vengono trasferite da altri e sono come un virus. Non ci accorgiamo qualche volta che se qualcuno ci starnutisce addosso una sua abitudine, o peggio ancora, se in molti ci starnutiscono addosso le loro abitudini, il loro modo di vivere, per noi diventano naturali e pensiamo di aver sempre fatto così. Io lo so che è così, che ogni giorno c'è qualcuno, qualche mass media, che potrebbe starnutirmi addosso la sua abitudine, che per me potrebbe diventare cronica, forse che potrebbe portarmi lentamente alla distruzione. Sì, perché le abitudini dell'uomo moderno non sono di quelle che ti portano subito alla morte, diventano abitudini croniche, come una malattia da curare per tutta la vita. Le abitudini croniche dell'uomo moderno sono malattie croniche in qualche modo come l'AIDS. La differenza però è che l'AIDS sappiamo tutti che è una malattia grave. Invece alcune abitudini contemporanee ci sembrano cose senza conseguenze, anche se poi ci fanno male. Ad esempio, se qualcuno un giorno mi starnutisce addosso la sua abitudine di parlare, per dire, con i verbi sbagliati, e il giorno dopo ancora, e il giorno dopo ancora, poco alla volta il virus introdotto nel mio corpo da quegli starnuti elimina dalla mia testa tutti i congiuntivi e io mi ritroverò a parlare solo all'indicativo presente, o peggio ancora, solo coi condizionali. Gli anticorpi congiuntivi del mio corpo si affievoliscono, si indeboliscono, alla fine spariscono. E io poi me ne vado in giro fiero per la città a dire se io sarei. Se un giorno qualcuno mi starnutisce addosso la sua abitudine di saltare la fila e il giorno dopo un altro e poi un altro ancora, sono sicuro che dopo qualche titubanza iniziale anch'io avrò la tentazione e poi mi abituerò a saltare la fila, anche quando faccio la comunione, per dire, e mi sembrerà normale, un'abitudine. Se un giorno qualcuno mi starnutisce addosso la sua abitudine di scrivere sui social buongiornissimo, so che anch'io poco alla volta lo farò. In un giorno più triste avrò la tentazione di farlo e prima o poi davvero lo farò. E così dalle nostre piccole abitudini quotidiane, le nostre piccole confortevoli abitudini quotidiane, le abitudini diventano collettive, diventano le nostre vite, diventano i nostri quartieri, le nostre città. Così se un giorno per strada vedo qualcuno che cammina con lo sguardo fisso sullo smartphone e non lo solleva mai, anche se una macchina lo sta investendo, oppure se vedo qualcuno pieno di tatuaggi dalla testa ai piedi che per metterne altri dovrebbe farsi aggiungere un braccio, se vedo qualcuno che ha 50 anni per sembrare giovane mette ancora i pantaloni a vita bassa, ecco, se vedo qualcuno di loro mi riconosco e dico io sono così, io sono come loro, dimenticandomi che prima non era così. Sono diventato così perché non mi sono protetto, non ho indossato la mascherina mentre mi starnutivano addosso le loro abitudini. E giorno dopo giorno quella che mi sembrava il peggiore, quello che mi sembrava il peggiore in mondi possibili, diventa la mia normalità, la mia realtà, molto peggio del coronavirus. Eccolo qua, bravo Leo, che dice allora lo teniamo. Niente male, no, assolutamente. Ho capito, ma ragazzi. Beh. Vabbè, allora facciamolo ritornare qui in studio, beh, direttamente. Ha deciso Andrea Vianello, esatto. Guarda qua, grandissimo Vianello, un saluto a un grande professionista da Amat da Udine. Vianello è grande, ha la voce più bella della radio e della TV. Mara, tanti auguri da Mara. Grazie vabbè. Mara, grazie. Allora, che dobbiamo dire? C'è Claudia dalla provincia di Prato. Claudia, buongiorno. Eccoci sì, buongiorno, qua. Buongiorno a voi. Prego. Che ci vuole dire? Sì, io volevo intervenire perché la storia molto toccante di Vianello, ma anche il discorso che prima ha fatto il parlamentare, che avete mandato quello sul sì, sovrappeso, Filippo Sensi, esatto, mi ha colpita e appunto da entrambe le esperienze emerge una capacità di trasformare poi in positivo quello che è una situazione percepita inizialmente come negativa, e in particolare mi riferisco al discorso del sovrappeso, del bullismo nei confronti dei bambini grassi. Io, essendo stata una bambina grassa, dico che la persona che è stata grassa da piccola rimane con l'anima grassa, no? Perché poi ha sempre la sensazione, anche quando è perfettamente normopeso, e addirittura a me ha talmente condizionato la vita che ho deciso di studiare per nutrizionista. È il lavoro che faccio attualmente da sempre, ormai ho più di 50 anni, e lo amo profondamente proprio perché è un modo per aiutare le altre persone a uscirne, ma anche non uscirne non vuol dire necessariamente diventare in forma perfetta, affrontarla, esatto, sia nel caso di sovrappeso ma anche di sottopeso, come diceva prima l'altro ascoltatore, sì, che mi sembrava molto molto molto provato nel dire perché infatti io tra i miei pazienti vedo che il 90% vengono per perdere peso, e se capita che incrociano una persona invece che molto è venuta magra, per molto magra, quindi per aumentare, mi dicono beati loro, non capiscono. Invece è come dire, sono due facce la stessa. Posso dire solo una cosa, avendo avuto anch'io essendo stato un bambino un po' cicciottello, anzi abbastanza cicciottello, io non penso che poi molto, non è solo un problema, anzi è poco un problema dei bambini. Sai, i bambini, quello che ha gli occhiali, quello che è più grande, più alto, più, cioè fa parte della vita, e anche trovare la forza dentro il gruppo. Io quello che dobbiamo realmente, questo sì, vedere che spesso anche noi giornalisti giochiamo con l'ironia, con quello che è ciccione, con quello che è un grissino, anche nella politica, no? Quello che è un po' più basso. Quante volte facciamo noi i cretinini? Allora, i bambini fanno i bambini, e poi ognuno di noi poi dovrà trovare la forza da... Però noi dobbiamo smettere di fare i cretini rispetto... Non si possono più vedere, no? Delle battute di quelli... Riprendiamo da qui nella seconda ora di Uno Nessuno 100.000, oggi con Andrea Vianello qua a co-condurre, straordinario. Tra poco il segnale orario vi è offerto da Samu Expo, metalmeccanica, plastica e subfornitura, 6-7-8 febbraio, Fiera di Pordenone. La prima scelta importante è quella delle superiori, poi università o ITS. In un mondo sempre più a portata di mano, studiare in Italia o all'estero. Sono Maria Piera Ceci, ogni giovedì sul sito di Radio 24 troverete un nuovo podcast di Verso il Futuro e Oltre, che vi aiuterà a districarvi in un'offerta formativa sempre più ricca, perché ogni ragazzo e ragazza ha il diritto di trovare la sua strada. Nel mese di febbraio parliamo di studio all'estero. Uno, nessuno, 100 Milan. Molto meglio a casa, Vanera, molto meglio, perché è più rilassato, più simpatico. È vero. Sì, è molto meglio, non ha fatto il viaggio in quella cavolo di metropolitana affollata, piena di malanni. Io lo trovo meglio, direi proprio di fare un contratto di questo genere con il telelavoro, e si può fare. Non produco polvere sottili, non è la moglie. Non so, è la moglie. È la parente, forse, non so. No, ma è vero, è più sereno. Allora, dai. C'è la seconda ora di Uno Nessuno 100.000. Cosa sta succedendo, Leonardo? Stai cadendo dalla sedia? Cosa stai... No, mi sono appena fatto un caffè solubile. Sì. Non mi faccio il caffè con la moca, perché la moca è un po' troppo forte. Il caffè fatto con la moca mi produce acidità. Invece prendo il caffè misto, orzo e caffè solubile, con un po' di latte, lo faccio scaldare, mi faccio questo. Noi siamo qua a lavorare. Paracaffè. Noi siamo faccio qua un a lavorare, lui, e dobbiamo assorbirci. Guarda qua, tanti auguri ad Andrea Vianello, ammiro il suo coraggio, complimenti. Bravo Vianello, poi un fratello rossonero, ho amato Rabona come pochi programmi, ci scrive Mauro da Milano. E infine, bene, Vianello dice di essere più sereno, ma mi raccomando, in TV contro i soprusi dei forti contro i deboli. Rivogliamo il vecchio mastino, rompi balle! Vedi, tanti abbracci, che bello. Grazie, grazie. Ti rivolgono. Tra poco un attimo parliamo della chat. Prima però vogliamo parlare allora di questo coronavirus. Ma è davvero incredibile, ma leggevo sui giornali che in via Paolo Sarpi, cioè la Chinatown qui a Milano, è tutto strade vuote. È contento il nostro Renzo Nespoli, che dice trova parcheggio, che è una meraviglia, alla sera quando va a casa. Noi però vogliamo salutare, saluto Francesco Wu, che è referente a Confcommercio Milano, Monza e Brianza e portavoce dei commercianti cinesi di Chinatown. Buongiorno Francesco, eccoci qua. Buongiorno, ci sente? No, benissimo, ci sente. Appena sentito la parola coronavirus è scappato anche lui. Tra l'altro, basta forse adesso... perché ha la mascherina e non riesce non so, a parlare con vediamo. Ci sei? Buongiorno, eccolo qua. Aspetta Leo, che chiediamo un attimo. So che ieri è venuto anche l'assessore, il segretario oggi, di oggi vengo. Oggi a pranzo. Oh, per dire, dare un segnale, a dire è inutile che evitate i cinesi. Però leggiamo che qualche preoccupazione c'è, insomma. È vero che Via Paolo Sarpi è un po' svuotata? Allora, Via Paolo Sarpi fino al weekend scorso si è lavorato come al solito. Invece a partire da lunedì ha avuto un tracollo. Non si sa perché dalla domenica a lunedì, no. Però c'è stato. Girano tante fake news, girano... su WhatsApp una voce video dove dice questo presunto ragazzo italiano che sta a Wuhan dice che vede 9.000 morti, ci sono strade blindate con i soldati che sparano a vista, no? Cioè situazioni un po' diciamo da film galattico, film da Blade Runner, non so. Ma chissà perché, esatto. Si scatena questo tipo di... Esatto. Oltre a questo c'è un'altra catena di Sant'Antonio, sempre su WeChat, dove c'è questo presunto medico che invita tutti a non andare nei negozi, nei ristoranti cinesi, no, a non... Qui dicevo, Andrea, qui il ruolo di noi che siamo nell'informazione, no? Cioè, no? Sai che appunto è chiaro che nell'era delle fake news non poteva che succedere questo, certo, in un momento così dove qualcuno lo farà per gioco, e questa è la cosa che fa pure un po' incazzare, e qualcuno lo farà per interesse. È chiaro che proprio noi giornalisti adesso... Ecco, e qui perché insomma ancora esistono noi giornalisti? Perché qui dobbiamo lavorare bene, cioè dobbiamo far capire che le cose vere. È chiaro che non è facile, no? Perché veramente è anche insomma quello che succede laggiù, che non è vero quello che sta dicendo giustamente il nostro ospite, no? Non è vero che stanno cadendo le cartone, però è difficile capire esattamente che cosa sta succedendo. Ci sono stati soprattutto i primi 10 giorni, cavolo, si racconta di buco, cioè i primi 10 giorni le autorità cinesi non hanno chiarito, e da lì è ovvio che poi andare a ricostruire a ritroso che cosa sia successo. Probabilmente se avessero fatto qualcosa, forse le cose adesso erano diverse, no? Sì. Quindi c'è stato, oggi c'è un pezzo molto bello a Repubblica proprio sul silenzio cinese, che sono 10 giorni che possono cambiare la storia di questo virus. Ecco, però Francesco Wu, come reagite? Perché ovviamente molte persone per il Capodanno cinese sono anche andate in Cina e sono poi entrate in Italia. Voi nella comunità che tipo di preoccupazione, se ne avete, avete? Allora, le persone che... Beh, adesso è stato chiuso i voli per la Cina. Ma prima di questo, già ormai da diversi giorni, da una settimana, le persone che venivano dalla Cina si mettevano a casa in autoquarantena per un periodo abbastanza importante, no? Che varia dai 10 a 14 giorni, che è il periodo dell'incubazione. Quindi c'è una grande responsabilità. Senza, diciamo, essere costretti a fare questa cosa qua, tanti lo hanno già fatto. Bisogna dire, rispetto a quello che si diceva prima, che c'è stato questo buco di 10 giorni che è assolutamente sbagliato e devono trovare le responsabilità, spero che vengano trovate, e come però rispetto al 2003, dove c'erano stati ritardi di mesi, le cose sono migliorate, ma non basta, perché se poi genera tutte queste problematiche non basta, e anche certo, in Cina devono trovare le responsabilità e le troveranno, no? Nel 2003 era saltato il ministro della sanità e il sindaco di Pechino, no? Questa volta vediamo chi salta. Chi salta? Intanto ovvio che, come dire, poi dall'altra parte la Cina ha messo subito online tutta la sequenza del DNA del virus, quindi dando la possibilità a tutto il mondo di poter collaborare a sconfiggere questo virus, no? Invece la paura, secondo me, in Cina, come dire, la cosa è molto seria ed è molto grave, Qui invece diciamo che nonostante i due casi la questione rimane solo seria, no? Sì, però ora è sotto controllo, anche se c'è da dire adesso proprio alle 10, quindi poco fa, è iniziato il Consiglio dei Ministri per, leggo dall'agenzia ANSA, per la dichiarazione dello stato d'emergenza proclamato dall'Organizzazione Mondiale della Sanità. È vero, ci sono questi due casi accertati, i primi due, lo ha detto il Presidente del Consiglio, a Roma, sì. Sì, però sono stati a Milano, poi a Parma, è una comitiva cinese che doveva adesso andare a Cazzino, tanto che il pullman l'hanno fermato e l'hanno portati anche gli altri. Per vedere insomma com'è la situazione, no? Quindi è chiaro che sono... Insomma, certo, questa cosa dei due casi chiaramente capisco che dà ansia, però dobbiamo capire che al momento, insomma, non dobbiamo avere paura, ecco, non è che possiamo... Soprattutto gettarci nel panico, non serve a nessuno, peraltro. Allora, dobbiamo andare un attimo alle informazioni sul traffico, poi rientriamo, svegliamo questa storia della chat. Leonardo, tu non lo sai, ma stai per entrare in una chat. Tu sai il tuo rapporto con le chat di gruppo? Ma solo quella del centro massaggi che frequento. No, massaggi erotico. No, non è quelle. Quelle sei in quella chat, ma sono un po' più sobri. Comunque ti spieghiamo. Perché la sensazione, secondo me, comunque è che ci sia diffidenza verso le informazioni che vengono date al governo cinese. Venendo da un regime totalitario, si pensa che non venga mai detta tutta la verità, forse anche per quello che nasce un po' di sospetto. Un pizzico, un pizzico di timore, forse è anche legittimo. Dico, quindi in qualche modo giustificato. Dai, andiamo al traffico. Promo 24. Eolo, internet a banda ultralarga, porta connettività fino a un giga simmetrico anche alle imprese nella provincia italiana. Eolo Azienda è la connettività ultraveloce con soluzioni progettate su misura per la tua impresa, anche se si trova nei nostri comuni più piccoli. Eolo Azienda ti permetterà di navigare fino a un giga, attivare il servizio in soli 5 giorni e di ricevere sempre un servizio di assistenza immediata. Un team Eolo dedicato alla tua azienda, con una risposta telefonica garantita in 20 secondi. Per scoprire le offerte Eolo Azienda, chiama il numero verde 800 939 939 oppure visita il sito azienda.eolo.it. Uno, nessuno, 100 Milan. Eccoci qua, allora 10-19 minuti, sveliamo questo mistero della chat perché ce lo stiamo portando avanti da tempo. Allora, Andrea Vianello è un grandissimo rossonero, fratello rossonero, come peraltro Leonardo Manera, come Lorenzo Nespoli in redazione, quindi se non si è milanisti proprio non c'è il divieto all'ingresso, insomma questo lo diciamo. Ma poi gli ascoltatori dell'altra parte non è che si... Ma lasciamogli arrabbiati. Facciamo parte di una chat, Milan Go, questo è il titolo della chat. E in questa chat, allora, chi entra in questa chat deve subito dichiararsi. Si fa parte della Fondazione Ciala, che è la fondazione che vuole cacciare Cialanoglu, oppure del Team Ciala, che sono coloro, credo, fondato da Matteo Orfini, che fa parte di questa chat. Tu non ti sei mai espresso su questo? Io sono della Fondazione Ciala, cioè via il turco. Adesso sai, dopo gli ultimi due gol, insomma, adesso noi siamo un po'... ci passa poco per riprendere cosa. Sono però, passato diciamo, per non il sono team mai entrato nel team, ecco, quindi... Tu, Leonardo... Io su Cialanoglu utilizzerei il metodo Toninelli, cioè quello dei costi-benefici. Devi vedere quanto costa e quanto rende in un anno. Secondo me fa 2-3 partite buone in un anno, ma per il resto devi fare come faceva Toninelli. Quindi scusa, non ho capito, sei più della fondazione? Io sono per cacciare sì. Cialanoglu. Allora, Leonardo Manera che vuole entrare in questa chat e si dichiara subito. Però c'è un presidente membro. Che dice se uno entra o no, quindi certo. Si chiama Claudio, Claudio Caprara. Cioè, tu vorresti entrare in questa chat, ti sottoporremo come candidatura dichiarando subito di essere della Fondazione Ciala. Va bene. Allora, tra poco riparleremo un attimo approfonditamente del libro di Andrea Vianello, perché sono arrivate tante domande. Prima dobbiamo però dare la linea, credo, a un interista. Vabbè. Mario Rusconi, buongiorno, se non ricordo male. Pronto? Buongiorno a tutti voi. Sì, lei ricorda bene che siamo noi interisti, che vi siamo sempre sulla testa, quindi non c'è nessun problema. Fate qualsiasi chat che vogliate, ma insomma noi siamo i primi e rimaniamo i migliori, come diceva. I primi. No, siete secondi, forse potenzialmente terzi, anche terzi, però vabbè, giusto così. Allora, Mario Rusconi, che rappresenta i presidi a Roma, avete lanciato questa iniziativa a dire, visto il disastro dei mezzi pubblici a Roma, e qui Andrea Vianello forse può confermare, dovreste avere l'autorizzazione per poter giustificare i ritardi dei ragazzi che si presentano a scuola. Ma davvero bisognerebbe contemplare questa idea, Rusconi? Ma guardi, noi non abbiamo lanciato nessun, diciamo, ultimatum o ordine di servizio ai colleghi, abbiamo detto semplicemente la situazione del traffico romano nel momento in cui poi esplodono alcune stazioni, Barberini, in questo caso Cornelia, diventa disastrosa, nel senso che il traffico automobilistico è qualcosa di impazzito, fermo restando che poi a Roma i vigili urbani mi risulta che siano un po' rare aves, che ci sia, ognuno lo dice, ove sia nessuno lo sa il vigile urbano. E questo lo potrei dimostrare perché abito in una zona Parioli in centro, insomma, dove da anni non vedo un vigile, però penso che ci siano, insomma, dove siano non lo sappiamo. Allora, il risultato qual è? Il risultato è che sono penalizzate le famiglie, che sono costrette spesso a prendere la macchina per accompagnare i bambini a scuola, per lo più sono famiglie e sono le mamme che accompagnano i bambini piccoli, sono penalizzati gli studenti, abbiamo detto ai nostri colleghi, ma è un modo anche di provocare in senso positivo l'amministrazione comunale, fate in modo che di avere una considerazione per ritardi lievi, fermo restando che rispettare l'orario è una cosa importante, rispettare le regole è una cosa importante, gradiremmo che le regole fossero soprattutto rispettate dalle istituzioni. La prima regola è il rispetto del cittadino e del suo bisogno di muoversi. Poi adesso si è aggiunta anche questa storia del coronavirus, voglio dire, ci sono studenti che rientrano dalla Cina, ci sono scuole, ho letto prima che addirittura a Prato, per esempio, c'è una forte comunità cinese, chiedono di un po' isolare, cioè non ci sono altri termini per dire i ragazzi cinesi almeno per 14 giorni. Ma guardi, questo non ha assolutamente senso, e io le posso dire un episodio che mi ricordava proprio un preside romano l'altro giorno, un genitore cinese chiama dicendo che oggi venerdì sarebbero tornati due bambini dalla Cina, erano andati con la mamma per il capodanno cinese poi soppresso, e il genitore ha detto non manderò i miei figli a scuola per 14 giorni. Quindi cioè ha avuto loro un atteggiamento intelligente, però non si può fare il bricolage, cioè noi stiamo aspettando che il Ministero della Salute, come ha promesso entro oggi per quanto riguarda le scuole, non solo dia delle indicazioni, ma guai a fare la caccia. C'è in corso il Consiglio dei Ministri, uscirà sicuramente lì. No, perché il tema è questo, cioè tu, Andrea, adesso te lo chiedo, ma oggi adesso torni a Roma, per carità, la psicosi è sbagliata eccetera, ma ci sono centinaia di migliaia di studenti, di ragazzi, ragazzini, cioè la preoccupazione è chiaro, cioè io vedo anche i miei figli, insomma, che in queste ore mandano messaggi, leggono appunto magari delle cose appunto che non sono neanche vere e hanno paura, no? E quindi è chiaro che è una cosa molto difficile in questo momento da gestire anche da un punto di vista politico, quindi, perché poi se fai troppe cose che sembra appunto che ci sia troppo allarme, se invece non prendi le precauzioni ti dicono che qui è molto difficile da gestire, proprio perché non abbiamo capito ancora chi è e com'è il nemico, che potrebbe la anche gravità. Essere appunto esatto. Però insomma io penso che la cosa più importante è il principio di cautela per i cittadini. Allora, no, nel ringraziare Mario al momento Rusconi, non si è ancora capito se è poco più di un'influenza o se invece è molto più di una polmonite, è quello anche che crea problemi, no? Non si sa qual è l'effettiva mortalità. Poi ci ha colpito, due giorni fa avevamo Roberto Burioni e lui ha detto il vaccino scordiamocelo, perché non c'è tempo. Non c'è la tempo. Verità è che l'unico sistema è proprio le precauzioni di quarantena, isolamento e arginare, evitare i luoghi affollati. Ricordiamoci che c'è stata la SARS e poi è finita, cioè quindi insomma, esatto. Si può trovare, speriamo che anche la scienza, che è, di solito è molto veloce, anche davanti a un nemico che non sappiamo bene chi è, può trovare il modo, magari come dice il grande Burioni, non sarà subito fare il vaccino, ma la cosa importante è che loro trovino, noi non capiamo ancora bene perché è nato, no? Non sappiamo se veramente con i serpenti, perché quindi insomma io penso che ogni ora è buona per trovare un modo. No, ma allora adesso vogliamo tornare, stiamo insieme fino alle 11, ci sono tante domande, io voglio tornare un po' a bomba anche sul libro di Andrea Venello, perché sono arrivate tante domande sul tema del dolore, della sofferenza. Guarda qua, anche solidarietà, voglio esprimere la solidarietà a Vianello, 14 anni fa ho avuto un encefalite, ho dovuto reimparare a camminare, parlare, fare qualunque cosa, non ho mollato, dunque coraggio avanti, sì, Maurizio, sì, da così parte. Così è, grazie. È arrivato però anche un messaggio, è arrivato di un ascoltatore, dice Andrea da Bresso, non vi sembra di aver strumentalmente criminalizzato la categoria degli osteopati, perché tu hai raccontato di questa vicenda, era inevitabile che arrivassero. Sì, anzi, guardate, io lo ridico, insomma, veramente ci sono tante persone che vanno e sono molto contenti con il lavoro che fanno questi professionisti, che, ripeto, devono essere normati, ok? Quindi la politica che fa le cose e poi non le finisce deve creare un albo dove possono sapere come si diventa osteopati, quali sono le regole. Quindi questa è la prima cosa che penso che possa essere una battaglia comune con loro. Io ieri ho parlato con col presidente, quindi insomma, cioè, stiamo in clima. Io sto solo raccontando quello che mi hanno detto, non quelli per strada, ma importanti medici, che c'è un rischio anche raro, e io sarò stato molto sfortunato facendo questo tipo, che non sono, però molti di osteopati neanche lo fanno, ti sto parlando dello croc, ecco. Allora io sto solo per dovere di cronaca, c'è un rischio piccolo, sì, ma però c'è. Per dovere di cronaca, tutto raccontato nel libro, Andrea racconta del fatto che quando questo professionista è venuto a sapere che cosa ti è successo, prima di tutto è sparito. Cioè, nel senso che sì, nel senso, mia moglie l'ha chiamato per dirgli solo che non potevo riandare perché lui mi cercava, senza dirgli naturalmente che mi avevano detto che poteva essere stato lui, diciamo, con lui, con questa manona, non per... E lui effettivamente ha detto che veniva e poi è sparito. Poi e poi dopo hai scoperto dopo mesi che lui stesso si era già, senza che nessuno avesse detto niente, si era già tutelato chiamando un avvocato. Sì, perché un collega che io ho visto da lui, con cui ho parlato, dopo 2 mesi gli ho detto: guarda, volevo solo dirti che mi è successa questa cosa, guarda, a me mi dicono che potrebbe essere... Lui dice: no, ma guarda, io lo so, dice, perché lo sai? Beh, perché me l'ha detto lui, che mi ha detto: sai, è successa una cosa brutta a Vianello e ho chiamato un avvocato. Sì. Vabbè, ma insomma, la manovra sarebbe quella in cui viene fatto schioccare il collo. Sì, esattamente quello. No? Ma ripeto, tantissime persone hanno grandi benefici. Attenzione, certo. Io sto dicendo che probabilmente per qualche persona, forse anche io, ripeto, poi anche i medici dicono che la prova dovrebbe essere mentre è successo lì. Loro sono sicuri. Sicuri, ecco, insomma, in casi rari, il mio che non avevo, diciamo, nessuna patologia, c'è un rischio perché è una manovra violenta, no? Ecco, però appunto. Niente contro non si vuole né terrorizzare, lavoriamo insieme perché tutti sappiano se ci sono rischi o no. Questo è il tema. Allora, dobbiamo sentire le informazioni sulla della borsa. Indovina un po', caro Leonardo, che cosa succede. Quindi da anni ormai siamo anche un po' infastiditi da questa presenza. È comparso Mauro Meazza. Mi chiedo come lui possa lucrare anche sul coronavirus. Non so se ne avevamo già parlato l'altro giorno. Guarda, l'abbiamo detto, facendo incetta di mascherine. Sì, certo. Sì, è vero. E poi le rivende al mercato. Che era andato in farmacia e mi hanno detto che era passato Mauro Meazza a comprarle tutte per rivenderle poi a prezzo maggiorato. Così, è così. È un uomo che è attaccato al vil denaro e l'altro vile per lui fondamentale. Va bene, andiamo a sentire come va la borsa. U 1, nessuno, 100 Milan. E la domanda è questa: da adesso che sappiamo che anche in Italia è arrivato il coronavirus, da oggi in poi chi manifesta febbre alta cosa deve fare? Va dal medico, hanno un test, ti mandano da qualche parte? Cioè, è un casino, eh? Beh, adesso c'è il Consiglio dei Ministri, dai, ci saranno delle indicazioni. Certo, se uno ha la febbre va dal medico come prima cosa. Però, allora, attenzione, adesso è successo qua uno psicodramma, perché... Allora, subito c'è stata una sollevazione, caro Leonardo, per quello che hai detto nei confronti di Çalhanoğlu. Subito qualcuno vuole porre una barriera preventiva, vuole metterti in quarantena, insomma, in un isolamento preventivo per non farti entrare nella chat. Proprio i difensori di Çalhanoğlu hanno detto: ritratta, Manera, ritratta, dai. Cioè, nella chat è, no, partito, non, è partita ma questa cosa, Manera non entra. Vabbè, resterò nella mia felice solitudine perché non posso ritrattare quello che pensi di Çalhanoğlu. No, no, però adesso stiamo cercando di lavorare, di lavorare per te. Allora, io riprendo in mano il libro Ogni parola che sapevo, perché questo libro di Andrea Vianello, che è edito da Mondadori, non so se l'ho detto prima ma lo dico adesso, è che è una storia dove marginalmente proprio c'è la vicenda che abbiamo parlato, ma in realtà è la sua storia di vita, insomma, di vita vera, di un rischio di uno sprofondo e poi di una risalita. Sai che ho scoperto che abbiamo tante cose in comune, no? Oltre il Milan. Sì, oltre il Milan, no? Perché tua moglie si chiama Francesca, come si chiamava Francesca mia moglie. Vi siete conosciuti in radio, come io avevo conosciuto Francesca, insomma. E poi mi sembra una donna molto forte che decide tutto. Cioè, Leonardo, sai che una cosa aveva chiesto alla nascita della figlia, Andrea, la moglie: scegli il nome, ma non i nomi composti, perché insomma dai, i nomi composti. Come si chiama tua figlia? Maria Carolina. Carolina. Nome composto. Che poi insomma, diciamo, è stato uno dei problemi che non riuscivo a dire i nomi, e sia Maria Carolina, poi il secondo che l'ho scelto io è Goffredo. Vittoria era più facile, ma non hai quanto tempo ci ho messo a dire Maria Carolina Goffredo, quindi insomma la è prossima stata una volta ripicca, quindi. Sì, è stata una ripicca, sì, esatto, non si bravo, capisce secondo, sì, no secondo no sì. Ma voglio dire, ma adesso Maria Carolina, adesso cara Francesca non ci sta ascoltando, insomma, ma perché, cioè cos'è, una, è stata una ripicca, è stata, cioè una era cosa un aveva crisi, chiesto forse. Una cosa aveva chiesto Andrea: non voglio i nomi però composti. C'era un motivo forte, perché la mamma di Francesca, che non c'era più, si chiamava Maria, e lei amava Carolina, e quindi di fronte capito, a questa dai, cosa ho detto è una provocazione. Vabbè, ma insomma poi pensa che io volevo chiamarla la nostra prima figlia, voleva anche chiamarla Ginevra, ma Ginevra Milan ci sembrava più un treno che una... Comunque l'importante è sapere che dopo questa ripicca il rapporto invece va bene, si è ripreso normalmente. Anzi insomma, se c'era lei adesso stavo qui, non c'ero qua, quindi è stata veramente per me una persona importantissima. Stupendo. Oltre mia moglie e la mamma di questi ragazzi pazzeschi. I figli come hanno reagito, esatto, di fronte alla malattia? Ma sai, all'inizio l'errore l'ho fatto io, nel senso che quando appunto ho capito che non riuscivo a parlare e mi vedevo debole, sfigurato, come dicevo, come un Sansone senza capelli, avevo paura di farmi vedere da loro così. E quindi ho detto a mia moglie di non vederli e neanche di parlarci, perché poi non riuscivo a parlare. E poi ho capito, grazie sempre a mia moglie, che è sempre più brava di me, che era un errore. C'è stata la possibilità, perché era il compleanno dei 17 anni di mio figlio Goffredo, e ho detto, e lei ha detto: beh, non possiamo quel giorno non rivederli, no? Non li puoi, devi vederli. Quindi sono uscito, stavo alla Santa Lucia nel frattempo, che era questo posto dove sono stato un mese in riabilitazione importantissimo, e mi hanno dato un permesso e li ho visti. E li ho visti e ho capito che avevo fatto una grande stupidaggine, perché non vedendomi pensavano che io fosti peggio di come ero. Ed erano così contenti a vedermi, e io con loro, che anche il fatto che parlavo male, anche se io gli ho detto scusatemi, ma a loro non gliene fregava niente, insomma, anzi, però, è però, stato poi, quando sono tornato a casa, anche un modo per giocarci. Però in questo libro è molto molto presente varie volte anche quello che tu definisci essere il pudore del malato, perché quando poi affidiamo le nostre vite, i nostri corpi, anche nudi, a infermieri, infermiere, tu hai ringraziato tante volte i medici che ti hanno salvato, tra l'altro li chiami in modo, ognuno, a ognuno hai dato, come dire, un nomignolo, un soprannome, sì. Però sta di fatto che a quel punto il tuo corpo, la tua dignità, il tuo pudore è totalmente affidato a persone che non conosci, che fanno uno straordinario lavoro. Incredibile, sì sì, no sai, poi insomma diciamo chiaramente nella mia, insomma io la sera prima sono andato in onda dalle 11 alle mezzanotte con Rabona, e avevo già quel mal di testa, però insomma pensavo fosse solamente una cosa appunto transitoria, e la mattina dopo, da uomo che stava in TV, stavo nudo nelle mani appunto sconosciuto. Sì, insomma è chiaro che questo è un problema di tutti noi che abbiamo questo, diciamo così. Intanto capisci che il tuo corpo è fragile, non lo sai, per tanto tempo non lo sai, poi improvvisamente capisci che sei rotto, no? E soprattutto sei nelle mani di altre persone e devi insomma gestirla questa cosa. Chiaramente, come dire, hai dei momenti di vergogna, no? Io appunto, qualcuno magari capiva pure che ero della TV, no? Quindi mi dicevano, certo, io poi non riuscivo neanche a parlare. Ti dicevano, mi manda Rai 3, cioè, lo chiamavano così, sì. Mi manda. Sì, perché ho fatto per tanti anni, peraltro c'è ancora un bellissimo programma con Salvo Sottire, quindi certo. Insomma adesso c'è sta un altro grande uomo della TV su questo. Però insomma sì, per tanti anni sono stato il volto e quindi io non riuscivo neanche a dire grazie, ciao, perché parlavo male. Qui insomma diciamo sono giorni difficili. Sì, poi dopodiché ragazzi, ecco, tutti quelli che hanno questi problemi siamo uguali, ecco, quindi non è, però insomma, guarda, io avevo soprattutto questa cosa della parola, mi sentivo veramente, meno che male, poi insomma appunto era meno più importante di altre, si no, capisce che sì, anche con le, l'anima è la stessa, anche se le parole sono un po' più spezzate, no? Quindi, quanto vabbè. Tempo ci è voluto prima di... Guarda, diciamo adesso come mi vedi adesso, oggi sto parlando benino, poi magari stasera meno, però insomma diciamo adesso è un anno, io lo faccio ancora oggi 3 volte a settimana di fare con la mia logopedista Claudia, quella mamma che mi ha fatto rimparare a parlare, perché poi la cosa ed è incredibile. Imparare come i bambini a 2 anni. Cioè ma neanche, capito, perché i bambini iniziano a parlare senza che nessuno glielo dice. Certo. Quindi dice. Ma tu sei dovuto ripartire da lì così, con la consapevolezza in realtà di averlo perso. Sì. Sono ripartito dai fonemi, cioè quindi proprio lei mi diceva, allora iniziamo con la N, na. E invece di uscire una N mi veniva la L oppure la D e non capivo perché, insomma, quindi è stato abbastanza difficile. Poi insomma, tanto lavoro, appunto il cervello poi c'è un pezzo appunto che lavora per il posto che è, e adesso mo, non ti dico che ancora devo, degli errori li faccio, non leggo a voce alta bene come era prima, ma che se ne frega, no. Vivo. Io devo dire anche una notizia prima del traffico che manderà in uno stato di prostrazione totale Leonardo Manera. Ma ti informo, caro Leonardo, che il nostro Andrea Vianello ha l'iscrizione all'albo degli assaggiatori nazionali di formaggio. Di formaggio. Sì, l'ha fatto. Manera appena sente. Manera non si può avvicinare neanche a Pienza, a 4 chilometri, cioè, perché. Allora per questo non è venuto oggi, allora. Lo sapeva. Sì, è una grande mia passione. Capito? una grande io ribadisco impressione. Che per me è impossibile avvicinarmi a Pienza perché si sente l'odore di formaggio già da 500 metri prima delle mura. E anche, immagino a Moena. Sì, ma lui guarda dove c'è il puzzone di Moena. Sono, quello per te è proprio impossibile. No, ma lui proprio non puoi andarci a cena, inizia a dire questo formaggio lo può mettere a 6 tavoli di distanza, ma anche il parmigiano grattugiato. Cioè, capito? La cosa più terribile è l'odore di formaggio quando lo si mette nella minestra, che si espande urbi e torbi ovunque. Ma guarda, invece Andrea qua stava già avendo la colina in bocca. È il bello dei gusti. Ognuno ha la sua. Cioè, assaggiatore nazionale di formaggio. Sì, poi volevo diventare maestro, però poi c'è stata sta cosa che sono stato male, quindi proverò, voglio diventare maestro, che è ancora più importante. Vabbè. Il traffico. Uno, nessuno, 100 Milan. Guarda, qua arrivano tanti messaggi di solidarietà, di abbracci. Grazie. Vabbè, ma insomma Andrea Vianello, grazie, che grazie adesso tutti, dobbiamo fare questo annuncio. Tra l'altro abbiamo strappato la RAI, ha firmato un contratto per Radio 24. Scusa, ho visto prima Alessandro Scaglioni, responsabile dei programmi. Magari ne parliamo, ecco, però diciamo. Io sono per adesso, sono sempre stato fedele alla RAI. Ho capito male. Allora. Sai, quest'anno faccio 30 anni di RAI, 30 anni di RAI, mamma mia. Tanta roba. Sentiamo Sebastiano che ci chiama da Genova. Buongiorno Sebastiano. Buongiorno dottor Milan. Sì, eccoci. Buongiorno. Mi collego al giorno di parlavate nella prima parte della trasmissione. Sì. Quindi sui problemi relativi alle persone discriminate. Ecco, anche se adesso spero che non si senta troppo. Io ho avuto un problema di balbuzie. Altro problema abbastanza discriminante, per cui insomma conosco bene il problema del ba brain dicevano comunque, e poi niente, la cosa è tramite un corso fatto basato su un metodo di cantilena, piantellino, poi la cosa è passata. Ha acquisito più forza, più consapevolezza. Assolutamente. Oppure, sì. Cioè, come diceva prima Filippo Sensi, il fatto di essere ciccione, ha usato questa espressione, rimane nell'anima, no? Come diceva anche l'ascoltatrice. Oppure lei, al contrario, invece... Ma la cosa è superata anche naturalmente, come professore faccio... Il commercialista, il rapporto col pubblico, insegno, quindi voglio dire, i rapporti ci sono, il problema è passato, però fino a 17 anni è stata una cosa abbastanza pesante. Io ricordo una cosa di un amico, perché siamo stati insieme in classe, che ne parla, e quindi per questo lo dico, nel senso che Paolo Bonolis, eravamo alle medie, era un ragazzo che barbettava molto, è diventato quello che è diventato, cioè uno dei più veloci con la parola di tutta la TV, ed è secondo me un grande simbolo, proprio il fatto che lui poi lo dice, perché tutte le persone debbono capire che si può fare, ecco, si può fare, perché è una cosa abbastanza vicina, no? A quello che adesso ho avuto io, un'altra cosa naturalmente, ma sì, soprattutto è una cosa che si può sconfiggere, come ha fatto lui molto, molto bene. Tra l'altro, Leo, sai che a un certo punto Andrea Vianello nel libro scrive che quando si risveglia, quando non ce la fa, insomma, e riceve proprio questa domanda, ce la fa? Il paramedico chiede e lui risponde, riesce a dire solo sì. E aggiunge, non credo di aver risposto solo con un sì negli ultimi 40 anni di rapporti sociali, no? Ma tutte le parole erano svanite non nella sua mente, ma svanite nella lingua, evidentemente. Comunque oggi la presenza di Andrea Vianello, secondo me, è una grande testimonianza, perché l'ictus è ancora una malattia ritenuta tabù, che veramente fa paura, e invece è una testimonianza per capire che si può poi anche migliorare e guarire. Ma non c'è dubbio, guarda, io insomma, poi è chiaro, ripeto, va detto che appunto i danni possono essere molto più forti, quindi io ho avuto fortuna, no? Però penso che c'è una cosa che dobbiamo insomma, aiutare le persone che ce l'hanno. Guarda, io l'altro giorno ho conosciuto una ragazza che ha avuto un ictus a 18 anni, adesso ne ha 22. Una bellissima ragazza, molto carina, e, che è entrata nella mia stanza perché voleva una dedica del libro. E io parlavo con lei, poi è entrata un'altra persona e ho visto che lei aveva questo problema con la mano, perché la mano gli è rimasta un po' ancora con cui non riesce a usare, no? E aveva sempre il pugno chiuso. E io gli ho chiesto, ma tu pensi sempre a questa mano? E lei mi ha detto, sì, io penso sempre alla mia mano. Ma dico, ma tu l'hai capito che sei molto carina? Tu pensi, no, io non sono carina, io ho questa mano. Ma dico, ma guarda che tu sei veramente carina. Ma... E lei dice, ma come posso essere carino con questa mano? Io, allora io dico, bene, io tutti i giorni adesso vengo da te, oggi voglio fare, se riesco ad andare nel posto dove lei lavora e dirgli che è carina. Che è carina. Ecco, perché lei pensa che tutti vedono una mano... che è un pezzo del suo essere, certo, bella dentro e fuori. Ecco, questo voglio un po' sperare. Beh, di dare qualcosa. Io conosco e la voglio citare perché è un'amica, Francesca, che insieme al marito Roberto ha creato una fondazione, si chiama Fight the Stroke, per addirittura l'ictus perinatale, cioè ci sono, sì, i neonati, sì, che in pancia può, i neonati, purtroppo, possono avere l'ictus e quindi nascono con delle, già, con delle conseguenze, sì, sì, molto molto, ne conosco, gravi. Tu hai raccontato, okay, nel libro per esempio chi sono i neglect, che è l'ictus credo della parte destra del cervello, e quindi... Sì, dove praticamente è come se tutta la parte sinistra della destra della tuo corpo è come se non esistesse, cioè loro chi ha avuto questo problema non capiscono cosa c'è tutta la parte destra, se c'è qualcuno, anche se lo vedi non lo capisci. Addirittura si terrorizzano per la loro mano se la vedono, perché pensano che sia la mano di un altro, strano, no? Cioè, o magari si fanno la barba a metà, nel senso, perché di là è come se non ci fosse, certo, la barba. E chiaramente è una cosa molto difficile da gestire, sono persone che poi peraltro hanno una forza e anche una lucidità forte, no? Certo. Ti fa capire che come, insomma, i problemi del cervello sono tanti, difficili, sono tanti, difficili, e bisogna, insomma, anche parlarne anche se fanno male. Noi ti ringraziamo tantissimo. Ogni parola che sapevo lo trovate in libreria per Mondadori, Andrea Vianello, è davvero un bellissimo libro che io vi consiglio. Che dire, ci hai fatto questo bel regalo, spero che rientrare in uno studio di radiofonico bellissimo, sia bellissimo, stato emozionante. È molto contento di stare con te e con Leo. Perché, sì, in vestaglia, insomma, a casa. Te, vabbè, poi lo rivedremo con una bella fezza di formaggio. questo è molto un regalo, un piccolo regalo colpo per te. Basso, terribile. Davvero grazie, è stato davvero molto bello. Buona vita, grazie, Andrea, davvero. Grazie. Ciao.